Parte della stampa inglese ha criticato Mancini, perché Mancini si è lamentato di avere solo due giocatori a centrocampo. Allora gli hanno dato del povero ragazzino ricco, che la trovo meravigliosa, perché la rosa del City mi pare sia di 29-30 giocatori, i centrocampisti sono 9, perlomeno stando al sito della società, e i milioni spesi da questo pazzo di Sceicco negli ultimi 3 anni sono 345. Sì, beh, è tutto vero. A me pare che gli inglesi, però, poi, per carità, la traduzione letterale non deve mai essere così fedele, perché poi, insomma, povero ragazzo ricco, mi sembra eccessiva, nel senso che è un modo di dire che loro hanno. Che loro hanno, sì. Sì, è vero, è tutto vero, ma è anche vero che Mancini ha un sacco di infortuni, un sacco di infortunati in questo momento. E quindi sì, certo, ha speso un sacco, ha comprato soprattutto giocatori di caratteristiche offensive, e quindi probabilmente certe fasi fa più fatica a farle fare a questi giocatori, però effettivamente complice una discreta serie di infortuni, è rimasto con pochi, ma in questo momento anche il Milan ne ha pochissimi di centrocampisti e nessuno si sognerebbe di scrivere, ma intanto perché Allegri non se n'è lamentato, ma diciamo che la virulenza verbale che viene utilizzata nei Sì. confronti di Mancini mi sembra un filino spinta da un paio di considerazioni. Quella che forse Roberto Mancini non è così amato dalla stampa, il fatto che sia italiano, cioè Sì, ma tutta una poi serie di considerazioni. giustamente anche questi eccessi dei tabloid, non c'è nessun dubbio che un tempo per noi era più facile deprecare, perché la stampa italiana, come dire, era un pochino più sobria, no? Sì, A sua una volta volta, sì, una volta anche sì. nella, no, non solo nella titolazione, ma proprio anche nell'impostazione. Oggi mi pare che si sia di molto avvicinata.